24. La storia. Si parla tanto di segreto su Arco 16, ma a che cosa si riferisce? Si riferisce a Gladio. Noi non sappiamo di Gladio molte cose. Perché c'era il segreto di Stato su questo aereo? E caspita, veniva impiegato per portare gli agenti oltre cortina. Il motto dell'intelligence service è il lavoro dell'intelligence, è così sporco che non può essere che affidato a gentiluomini. Non so, non ricordo, non risulta, e poi qualcuno invece, sentendo il tintinnio delle manette, ha cominciato a ricordare. Oggi a Radio 24 vi parliamo di un mistero mai chiarito, quello su Argo 16. L'aereo DC-3 Dakota dell'aeronautica militare che il 23 novembre del 73 alle 7 del mattino si schianta sul suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Venezia. Nel disastro muoiono 4 persone dell'equipaggio. Ma questa storia ha inizio qualche settimana prima, è il settembre del 73. A Roma arriva un comando di 5 terroristi palestinesi di origine libica, ma gli agenti del SID li tengono sotto controllo. Sentiamo la testimonianza inedita di Ambrogio Viviani, capo della sezione di controspionaggio del SID dal 70 al 74. Io come capo del controspionaggio avevamo, parlo del 73, avevamo sott'occhio una commissione di 5 libici arrivati a Roma. Cominciò il controllo di questi 5. Cosa fanno a Roma? Cosa vengono a fare? Controllo con la tecnica dei servizi segreti, microfoni in stanza, lo dico e smentisco perché ma salta fuori qualcuno dice avete messo i microfoni senza autorizzazione. Non si può lavorare con le autorizzazioni continue, no? Quindi microfoni, sottufficiale in cantina che ascoltava cosa dicevano questi, interprete per capire cosa dicevano, cioè, pedinamenti, dove andavano, con chi parlavano. A un certo momento il servizio scopre che questi hanno affittato un appartamento a Ostia. Due dei nostri entrano nell'appartamento, controllano, c'erano solamente in un armadio 2 missili Strela, sono missili russi speciali autocercanti, fanno tutto da solo loro. E in casa ci sono gli orari delle linee aeree israeliane all'aeroporto. Allora è chiaro, stanno, e la terrazza lunga di questo appartamento era perpendicolare alle linee di decollo degli aerei. C'è chiaro che si stanno preparando per abbattere un aereo, era troppo chiara la questione. Intervenuti, bloccato tutto, arrestati questi qui, no, con le prove. Il ministro Moro, che era ministro degli esteri o presidente del, no, era ministro degli esteri, no, ha dato l'ordine restituire questi 5, perché naturalmente l'ambasciata libica aveva protestato dell'arresto. Avete arrestato 5 innocenti, le solite cose di politica. Allora, 2 li abbiamo restituiti subito e 3 sono stati trattenuti e restituiti. Noi non volevamo, ripeto, perché volevamo sapere, eccetera, eccetera, sono stati restituiti dopo. Il capitano Labruna, che era uno dei nostri agenti, bravissimo, bravissimo, no? E fu incaricato di portare i 2 in Libia. Con che cosa? Con un aereo, non si poteva mica pigliare l'aereo, con l'aereo Argo 16. Erano arrabbiati i servizi israeliani, erano seccati veramente, anche perché in tutta la faccenda ci avevano aiutato. E quindi erano molto seccate. Dice, ma come, lavoriamo, riusciamo a pescare questi qui, adesso voi li restituite. Dunque, quell'aereo DC-3 Dakota, nome in codice Argo 16, è stato al centro di un'operazione coperta del SID, pensata per restituire ai palestinesi terroristi che stavano progettando un attentato a Roma contro le linee aeree israeliane El Al. 3 settimane dopo, quell'aereo si schianta sulla pista di Venezia Tessera. Una coincidenza inquietante che forse non è affatto una coincidenza. Ma che cosa è successo esattamente in quelle prime ore del mattino di venerdì 23 novembre del 73? 23 novembre 1973, ore 7 circa. Sull'aereo Argo 16, che per tutta la notte è stato fermo sulla pista dell'aeroporto di Venezia, prendono posto il comandante Anano Borro e il tenente colonnello Mario Grande, e i marescialli Aldo Schiavone e Francesco Bernardini. È lo stesso equipaggio che meno di un mese prima ha ricondotto i terroristi palestinesi a Tripoli. Ore 7.30. L'aereo Argo 16 decolla. Arriva a quota 2.500 piedi. Poi lo schianto. L'aereo precipita sullo stabilimento Montefibre di Porto Marghera, il polo industriale a poca distanza dall'aeroporto. Sentiamo Luigi Borreo, figlio del comandante Anano Borreo, un pilota di grandissima esperienza, pluridecorato nella Seconda Guerra Mondiale, morto su Argo 16. Vennero tre ufficiali a dirci che era successo un incidente, che mio padre era grave, l'incidente era grave. La comunicazione era già abbastanza evidente, però insomma fu una bugia che benevolmente ci preparò insomma alla notizia definitiva che erano tutti morti. È stato un bimotore turbo elica C-47 Dakota, appartenente al reparto volo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, in volo di trasferimento dall'aeroporto di Testera a quello di Aviano sulla via per Trieste, a provocare la sciagura che non ha avuto più gravi proporzioni soltanto per un caso. L'apparecchio infatti, dopo aver urtato contro la prima palazzina dove si trovava al lavoro una trentina di impiegati, è andato a esplodere disintegrandosi nell'area di parcheggio prospiciente gli insediamenti della Montefibre. No, io non sapevo assolutamente cosa mio padre facesse, diceva che partiva, diceva dove andava. L'unica volta mi meravigliò moltissimo che disse qualche cosa fu proprio dopo l'estate, mi ricordo perfettamente, dopo l'estate del 73, quindi proprio nell'immediatezza della tragedia e nel momento in cui evidentemente c'erano quelle trattative per la liberazione di quei terroristi palestinesi. Un giorno eravamo in macchina, mi disse: Luigi, quando io ti dico che vado in un posto, non dirlo mai a nessuno, non dirlo ai tuoi amici se capita che state studiando assieme. Io, meravigliato, rivolsi a lui lo sguardo e gli domandai perché. Lui, così con noncuranza, guardando davanti, disse: stia attentati. Io tra me e me proprio ricordo che mi fece quasi un sorriso, un ironico, come dire, chi è che ti va a fare un attentato a te? Dunque il comandante Borreo temeva per la sua vita, era consapevole che il suo lavoro lo portava al centro di situazioni delicate e pericolose. In un momento di grandissima tensione internazionale, poche settimane prima infatti si è combattuta la guerra del Kippur, una guerra in cui l'Italia ha fornito aiuto e sostegno logistico a Israele. Naturalmente anche i servizi segreti italiani si rendono conto che dietro il disastro del Largo 16 potrebbe esserci un attentato. Da parte di chi? Continuiamo subito dopo la viabilità. Rieccoci a Radio 24 con il mistero di Argo 16, l'aereo dell'aeronautica militare che il 23 novembre del 73 si schianta al suolo causando la morte di quattro persone, tra cui il comandante Borreo. Il sospetto nei giorni successivi al disastro è che non sia stato un incidente. Roma, 29 novembre 1973. A Palazzo Barracchini, nella sede del SID, si tiene una riunione per assegnare le nuove sedi degli addetti militari. Sono presenti il generale Vito Miceli, capo del SID, il generale Gianadelio Maletti, il numero 2 del servizio segreto e numerosi alti ufficiali. Sentiamo Sebastiano Sartoretto, l'avvocato della famiglia Borreo, e Ambrogio Viviani, capo della sezione di controspionaggio del SID dal 70 al 74. Il primo che ipotizza e fa sorgere il dubbio che si sia trattato di un sabotaggio è il generale Maletti. In quella sede è Maletti che dice: ma forse è stato un sabotaggio fatto dai servizi israeliani. Il generale Miceli lo prende sotto braccio e si spostano in un'altra stanza. Non era la certezza di dire è stato un avvertimento, cioè sono stati loro, no? Era un sospetto generalizzato nel nostro ambiente, cioè si pensava a tutti, ma vuoi vedere che perché gli ebrei sono terribili e d'altra parte sono terribili perché si trovano allora, specialmente ancora oggi, ancora ieri, ancora domani, no? Si trovano in quella situazione e quindi giocano il tutto per tutto. Allora il sospetto generalizzato nel nostro ambiente era: vuoi vedere che sono stati quelli per darci questo avvertimento di smetterla? Smetterla con la scarcerazione dei terroristi palestinesi, smetterla con la politica del doppio binario, cioè da una parte l'Alleanza Atlantica e quindi l'appoggio a Israele, dall'altra la simpatia per il mondo arabo e per la causa palestinesi. Eppure questa politica estera italiana si fonda su un accordo ben preciso tra il governo italiano e l'OLP di Yasser Arafat. Un accordo segreto di cui per molti anni nessuno saprà nulla. Ce ne parla Giovanni Pellegrini, presidente della Commissione Stragi dal 1994 al 2001. È un patto che viene stipulato nell'autunno del 1973, durante la guerra del Kippur. Ed è un patto stretto fra il Ministero degli Esteri italiano e l'OLP. Il patto era che l'OLP non avrebbe compiuto attentati sul suolo nazionale e noi avremmo consentito, attraverso vari modi, la liberazione di guerriglieri palestinesi che venissero catturati sul suolo nazionale. Ma nel 1973 questo patto è ancora coperto da top secret. Nessuno lo conosce e chi ne ha conoscenza mantiene il segreto. Intanto, l'aeronautica militare apre un'inchiesta sul disastro Argo 16. La commissione permanente presso il Ministero della Difesa trae le conclusioni. Vengono passate alla magistratura e nel 1974 viene archiviato il caso. Per l'aeronautica militare, dunque, il caso è chiuso. Il disastro di Argo 16 non è stato un attentato, ma solo un incidente. Poi però, colpo di scena. Nei primi anni Ottanta sia il generale Miceli che il generale Viviani con due interviste avanzano pubblicamente dei sospetti sulla vera causa del disastro di Argo 16. Ce ne parla Sebastiano Santoretto, l'avvocato della famiglia del comandante Borio, morto in quell'incidente. Già nell'84 e nell'86 erano apparsi tre articoli sul giornale in cui il generale Miceli parlò di Argo 16 e disse: fu fatto esplodere, l'aereo fu fatto esplodere. Poi, nell'immediatezza, e quindi circa un anno dopo, il generale Viviani rilascia questa intervista a Panorama in cui disse: ma si trattò di un avvertimento un po' cruento dei servizi di Israele al governo italiano. Estate 1986. La Procura di Venezia riapre il caso Argo 16. Argo è il simbolo di una ritorsione, una per tutte, di una ritorsione israeliana per dire: noi non siamo né gli americani, noi siamo un popolo determinato e questo è un segno che noi vi dobbiamo dare. Perché io dico sempre, cioè, si dice in genere, ma io ci ho aggiunto qualcosa, che noi avevamo una moglie americana, un amante araba e una suocera israeliana, però ci siamo sempre ritirati a casa, nel senso che abbiamo dato sempre conto delle nostre operazioni coperte agli americani. Cioè, prima di dare i missili a Gheddafi, noi andavamo a riferire all'ambasciata americana. L'ipotesi a cui lavora il giudice Carlo Mastelloni che abbiamo sentito è insomma un'ipotesi molto chiara. Argo 16 è stata abbattuta dagli israeliani come ritorsione per la liberazione dei terroristi palestinesi. Davanti a lui al Tribunale di Venezia sfilano generali e alti ufficiali dei servizi, ma molti preferiscono tacere e qualcuno viene anche arrestato, come Ambrogio Viviani, il capo della sezione di controspionaggio del SID, che sentiamo assieme al magistrato Mastelloni. Mastelloni ci ha interrogato, io spiegai la questione, spiegarono anche i colleghi e a un certo momento Mastelloni, almeno verso di me si vede che gli ero antipatico. No, dice: no, lei è reticente, non vuol parlare, e mi ha messo in prigione. Sono stato arrestato, portato alle carceri, quelle vicino alla stazione Santa Maria, mi pare, cella di isolamento, impronte digitali, insomma proprio un delinquente. Tutti questi ufficiali fanno resistenza benché siano, erano dei loro compagni di viaggio, erano dei commilitoni, erano dei soldati. Quindi questo è il vero punto interrogativo. È possibile che il vincolo del segreto, il vincolo a questo giuramento prescinda da un vincolo di solidarietà umana? Oppure c'è dell'altro, se sono in posizioni dall'alto, direttive? Se fossi stato sicuro che la caduta di Argo fosse dovuta allora a un atto di sabotaggio israeliano, cosa impossibile a sapersi, perché gli israeliani sono di fatto loro e sono abilissimi nel fare anche queste operazioni, no? Sarei intervenuto, avrei denunciato la questione, ma che scherziamo? Come si permette un servizio di un altro paese di fare una roba di questo genere in Italia a danno nostro? È una cosa incomprensibile, assolutamente. Intanto il giudice Mastelloni ordina anche una nuova perizia sui resti di Argo 16. Nel 74 i periti dell'aeronautica avevano scritto che le cause del disastro erano imprecisate. I periti nominati da Mastelloni invece arrivano a conclusioni molto diverse. Ma la perizia ordinata da Mastelloni non si limita solo alle cause del disastro. Analizziamo le incongruenze insieme all'avvocato Sebastiano Sartoretto. La perizia del 1974, quella ordinata dall'aeronautica, sostiene che nella caduta di Argo 16 il primo impatto fu quello tra l'ala dell'aereo e un palo della luce dello stabilimento Montefibre. Se l'ala dell'aereo avesse impattato sul palo l'avrebbe demolito, invece il palo era integro e invece i periti del giudice istruttore concludono che l'aereo impattò sul fabbricato dove era allocato il centro meccanografico di Montefibre. Ma le incongruenze tra le due perizie non finiscono qui. Secondo la perizia del 74, infatti, quella di Argo 16 fu un volo a vista, cioè senza l'ausilio degli strumenti di bordo. Viceversa, viene chiarito che non era un volo a vista, era un volo strumentale. Se fosse stato fatto un volo a vista, il centro di controllo avrebbe dovuto dare l'autorizzazione, autorizzazione che non era stata data. Ultimo punto, l'ora esatta del disastro. Secondo la perizia dell'aeronautica, quella del 74, l'equipaggio di Argo 16 avrebbe perso il contatto con la torre di controllo dell'aeroporto di Venezia alle 7.33 del mattino. Viceversa, la perizia del giudice istruttore accerta che l'aereo perse il contatto con la torre di controllo un minuto dopo. Dunque, le due perizie portano a conclusioni molto, molto diverse. Ma non sono solo le perizie a essere in contraddizione, anche tra i testimoni ci sono incongruenze. Su Radio 24 stiamo ricostruendo il mistero di Argo 16, l'aereo dell'aeronautica militare che si schianta al suolo nel novembre del 73, un mese dopo aver trasportato dei terroristi palestinesi che stavano progettando un attentato a Roma contro le linee aeree israeliane di El Al. Una coincidenza? Continuiamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci su Radio 24 con l'intrigo dell'Argo 16, l'aereo dell'aeronautica militare al centro di un intrigo internazionale. Argo 16, infatti, poco prima dello schianto nei pressi di Venezia, aveva trasportato dei terroristi palestinesi in Libia. Secondo alcuni, Argo 16 sarebbe stato abbattuto come ritorsione da parte degli israeliani, quasi come un avvertimento. Gli italiani non dovevano rilasciare quei terroristi. Nel 74 il caso è archiviato, ma negli anni 80 il giudice Mastelloni riapre l'inchiesta per stabilire definitivamente se si tratta di un sabotaggio o di un incidente. E tra le persone chiamate a testimoniare il generale Gianadelio Maletti, all'epoca numero 2 del SID. Sentiamo Sebastiano Sartoretto, l'avvocato della famiglia Borio, vittima dell'incidente. Maletti disse: io accetto di parlare anche su Argo 16, però fuori verbale. Io su Argo 16 ho sempre pensato a un sabotaggio e si ipotizzò all'epoca un sabotaggio da parte del Mossad. Dove invece diede certezze e non parlò di ipotesi fu sul fatto che l'aereo fu manomesso, e quindi manomesso si intende dolosamente. Al Tribunale di Venezia intanto continua la sfilata dei testimoni. E i testimoni si contraddicono tra di loro. E poi c'è chi parla, chi non ricorda, chi è reticente. E quando Mastelloni chiede a Roma le carte su Argo 16, i servizi rispondono che non esiste nessun fascicolo. Il colonnello Viezzer adduceva che gli era passato per le mani il fascicolo a seguito dell'inchiesta informativa fatta da Maletti. Durante una perquisizione gigantesca fatta a Forte Braschi, il fascicolo non è stato trovato, ma siamo nel 95-96. Quindi io credo, loro sostengono che non esiste, il servizio è sempre sostenuto che non esisteva una pratica informativa, però qualche carta sulle minacce è venuta fuori, non poteva non far parte di una cartellina. Sono convinto che ci sia ancora qualcosa a Forte Braschi che riguarda la pratica Argo 16. Del resto, vede, il colonnello Viezzer, imputato nel processo in corte d'assise, a processo iniziato, mi pare attorno al 26 novembre del 99, manda attraverso il suo legale una lettera alla corte d'assise in cui dice: io sono innocente, non ho assolutamente depistato nessuno, non ho occultato documenti, non ho soppresso documenti, il fascicolo è ancora a Forte Braschi, basta andarlo a cercare, basta sapere dove andarlo a cercare, io mi rendo disponibile per andare a Forte Braschi e cercare il fascicolo laddove è. Ma la Corte ritenne di non dar seguito a questa disponibilità data dal colonnello Viezzer e non se ne fece nulla. Ma l'inchiesta su Argo 16 non ruota solo intorno alle carte e ai fascicoli. Al centro di questa vicenda, infatti, c'è anche la politica estera italiana degli anni 70. È il famoso Lodo Moro, il patto cioè tra Aldo Moro e i palestinesi dell'OLP. Ce ne parla Giovanni Pellegrini, presidente della Commissione Stragi dal 94 al 2011. Il patto fu sicuramente preparato dai servizi, dal servizio segreto militare. Lo chiamiamo patto Moro perché nelle lettere di Moro, che ci sono una serie di riferimenti prima abbastanza larvali e poi sempre più precisi a questo patto. Innanzitutto nella lettera a Cottafavi, all'ambasciatore Cottafavi, che era vice segretario dell'ONU, se non sbaglio, che del 23 aprile del 1978, lui fa riferimento: in Italia stessa, per i casi dei palestinesi, ci siamo comportati in altro modo. Poi successivamente, in due lettere del 29 aprile, una a Piccoli e l'altra a Pennacchini, che era il vertice di quello che chiameremo adesso il COPACO, del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, lui fa invece un riferimento esplicito ai vari modi con cui in Italia si era consentito a terroristi palestinesi di riacquistare la libertà attraverso esilio in un paese terzo. Però siccome il paese terzo era la Libia, diciamo, era terzo per modo di dire. Nell'autunno dell'88 il giudice Mastelloni chiede al SID, che nel frattempo è diventato il SISMI, l'elenco delle missioni compiute dall'aereo Argo 16. Ma il servizio segreto oppone il segreto di Stato, autorizzato anche dal presidente del Consiglio dell'epoca, Ciriaco De Mita. Ma perché tanti segreti? Che cosa non si deve sapere su Argo 16? L'avvocato Sebastiano Sartoretto. Se fossero state date tutte le missioni svolte da Argo 16, sarebbe emerso già allora che Argo 16 era l'aereo che veniva utilizzato dai servizi per trasportare gli aderenti a Gladio, i componenti di Gladio, dagli aeroporti di Istrana e di Aviano in una base di Alghero per fare addestramento. Argo 16 dunque non era solo l'aereo usato dal servizio segreto per le missioni coperte, era anche l'aereo di Gladio, un'organizzazione costituita negli anni 50 che rimase segreta fino all'autunno del 90. Giuseppe De Luzzi, storico. Gladio è una struttura che secondo i documenti ufficiali è stata costituita nel 56 per opporsi a eventuali invasioni da parte degli eserciti del patto di Varsavia, cioè l'Europa orientale. è stata sciolta nel 90 per iniziativa del Presidente del Consiglio Andreotti. Dopo quello scioglimento vi fu un periodo di grandi sospetti su eventuali coinvolgimenti di Gladio in altre attività, stragismo, terrorismo, colpi di Stato, ma di questo non ci sono evidenze giudiziariamente accertate. Ma qual è il possibile legame tra Gladio e il disastro di Argo 16? Il generale Gerardo Serravalle, capo di Gladio da 71 a 74, e cioè proprio negli anni in cui si verifica la tragedia di Argo 16, ha dichiarato in un'intervista televisiva che quel disastro, forse, è da attribuire proprio ad alcuni gladiatori. Serravalle infatti racconta che all'epoca aveva smantellato molti depositi di armi e che il sabotaggio dell'Arco 16 potrebbe essere stata una vendetta contro di lui. Noi naturalmente abbiamo interpellato il generale Serravalle, che però ha preferito non rilasciarci nessuna intervista. Il suo successore e capo di Gladio, il generale Inzerilli, smentisce tuttavia questa ipotesi. Così Paolo Inzerilli. Io ero capo di Stato Maggiore del servizio, ma ero stato per 12 anni il responsabile diretto della Gladio. Uno dei dogmi era che la Gladio rimanesse coperta dal segreto di Stato, che era stato più volte opposto a vari magistrati, e questo per questioni nazionali e per questioni di accordi NATO. Ho dato atto a tutti i civili che noi abbiamo reclutato e addestrato, sono i primi che non hanno parlato. Per noi che portavamo le stellette era un dovere, quindi il discorso è uno dei pochi segreti di questa Repubblica che è rimasto tale dal punto di vista più che giustificato, perché era un'operazione militare che doveva servire per quanto riguardava la difesa della patria, la difesa dello Stato, e quindi, ripeto, era un dovere per noi militari e un dovere morale per chi aveva fatto parte dell'organizzazione. L'ipotesi che Argo sia stato sabotato per questione interna alla Gladio è una enorme stupidaggine. Non esisteva nessun motivo, né oggettivo né soggettivo, perché succedesse una cosa del genere. Questo esercito, virgolette, segreto era di una fedeltà alle istituzioni, di una fedeltà al paese, di una fedeltà a chi lo dirigeva, come è successo con me per ben 12 anni, per cui nessuno si sarebbe mai sognato di fare una questione del genere. Dicembre 1998. Dopo 12 anni di istruttoria, il giudice di Venezia Carlo Mastelloni rinvia a giudizio Zvi Zamir, all'epoca capo del Mossad, per il reato di strage. Mastelloni porta in tribunale anche 6 alti ufficiali dei servizi segreti italiani, tra cui il generale Maletti e il generale Viviani, nonché 2 civili, tutti con l'accusa di aver occultato e soppresso le prove relative ad Argo 16. Così il generale Viviani. Il Mossad è un istituto, ma è una organizzazione di 5 servizi diversi: spionaggio, terrorismo, antiterrorismo, eccetera. Quindi si chiama Mossad, si traduce istituto, no? Si chiama Mossad, ma sono 5. Uno di queste branche, contro spionaggio e contro terrorismo, aveva un rappresentante in Italia, uno che poi aveva perso un braccio nella guerra dei 6 giorni. Si chiama Asa Levan, mio carissimo, una persona veramente a posto. E io conoscevo questo, anche lui fu messo sotto inchiesta da Mastelloni, però per fortuna era in Israele e quindi è anche il capo del Mossad. Si misero tutti a ridere. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia della tragedia dell'aereo Argo 16. Un incidente o un sabotaggio israeliano? Continuiamo subito dopo la viabilità. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Argo 16, l'aereo dell'aeronautica militare schiantatosi nei pressi dell'aeroporto di Venezia. Secondo un'ipotesi della Procura di Venezia, si tratterebbe di un sabotaggio da parte degli israeliani, un avvertimento in seguito alla liberazione di alcuni palestinesi che stavano preparando un attentato alle linee aeree israeliane. Ma è davvero possibile che Israele, uno stato alleato dell'Italia, abbia sabotato Argo? Qual era il clima internazionale di quei giorni? È il 6 ottobre del 73. Al disastro di Argo mancano meno di 2 mesi. Egitto e Siria attaccano Israele. È la guerra del Kippur. E l'Italia giocò un ruolo di primo piano nella difesa dello Stato amico. Così Paolo Inzerilli, capo di Gladio dal 74 all'86. L'appiccicare, il rientro di questi 2 o 3 terroristi con la caduta di Argo, scorda che c'è stata una guerra del Kippur. Per quello che mi risulta, visto che dentro a quell'azienda ci sono stato 17 anni, gli israeliani erano in debito nelle guardie del servizio italiano abbondantemente per la guerra del Kippur, quindi non avrebbero mai e poi mai fatto un'operazione del genere contro il servizio italiano, mai. 16 dicembre 1999. La Corte di Assise di Venezia assolve tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Così Luigi Borrio, figlio del comandante di Argo 16 e il suo avvocato. Quasi non volevo credere a quello che avevo appena sentito, ma poi guardai l'avvocato e dal suo viso esterrefatto, insomma, capii che era tutto finito. Si conclude il processo con una sentenza perché il fatto non sussiste. E nelle motivazioni la Corte fa un ragionamento di questo tipo, dice: ma non è provato che si sia trattato di un sabotaggio, il sabotaggio dell'aereo è una mera ipotesi che non ha trovato riscontri nella realtà, d'altra parte il relitto del velivolo non c'è più, perché nel frattempo era stato venduto, smantellato da dove era in deposito. E conseguentemente non regge neanche l'accusa ai vertici dei servizi italiani di sottrazione, occultamento di documenti e di favoreggiamento. E Giovanni Pellegrino, presidente della commissione stragi dal 1994 al 2001, si era inizialmente affezionato alla tesi accusatoria di Mastelloni, ma con il passare delle sentenze cambia opinione. Così Pellegrino e Mastelloni. Ho vista la sentenza e mi sono reso conto che quell'ipotesi accusatoria era molto fragile e che probabilmente nel formularla Mastelloni e nell'aderirvi noi non avevamo tenuto conto della complessità della politica estera italiana, che mentre apriva questo canale di accordo con l'Olpo, nello stesso tempo invece aveva rapporti estremamente collaborativi col Mossad. E quindi eravamo in questa situazione di scambi di doppi favori che rendono abbastanza improbabile che il Mossad si sia voluto vendicare colpendo uomini di un servizio che in realtà collaborava anche con loro. Sentendo i testi, poi anche ascoltando, leggendo, anche dopo il processo, io sono convinto che sia andata così. E la verità sta in questo. Il capo del servizio israeliano, quando diventa tale, ha a disposizione la lettura di tutte le operazioni speciali fatte all'estero ed è l'unico abilitato a prenderne visione e a leggerne. Naturalmente non si può più sequestrare questo testo che sarà nella cassaforte evidentemente del capo del Mossad, ma lì ci sono tutti i termini dell'operazione. Giovanni Pellegrino, presidente della commissione stragi dal 1994 al 2001, ricorda inoltre un colloquio privato con l'ex capo del SISMI, l'ammiraglio Fulvio Martini. Per me è stato importante quello che mi ha detto Martini, diciamo, era un colloquio così confidenziale, così amichevole, in cui Martini mi disse anche cose che non ci aveva detto in commissione. Riconobbe che alcune cose che ci aveva detto in commissione non erano vere e però insistette su questo. Non aveva nessun motivo per non dire quello che in cui veramente credeva ad uno che ormai era ex presidente della commissione stragi e stava uscendo dalla scena politica nazionale. Lui mi parlò di un errore umano del pilota. Come pilota era senz'altro considerato, insomma, estremamente esperto, abile, ma soprattutto affidabile. E allora, cosa è successo davvero ad Argo 16? come e perché sono morti il comandante Borrio, il colonnello Grandi, i marescialli Schiavone e Bernardini. Si è trattato di un incidente oppure di un sabotaggio, di un giallo internazionale oppure di un atto di terrorismo interno? Insomma, perché è così difficile arrivare a una verità definitiva? Sentiamo le parole dell'avvocato Sebastiano Sartoretto e del figlio del comandante di Argo 16. In tempi molto recenti, il presidente emerito della Repubblica Cossiga, in interviste ai giornali, l'ultima Panorama, accennò alla vicenda Argo 16 parlando in maniera chiara e esponendo senza dubbio che si trattò di un atto di sabotaggio del servizio segreto di Israele nei confronti di un aereo dei servizi segreti italiani. Nel 2006 io con il figlio del comandante dell'equipaggio abbiamo indirizzato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo che su questa vicenda venga fatta luce, chiedendo che finalmente vengano messe a disposizione le carte relative a questa vicenda che secondo noi ci sono ancora presso i servizi e soprattutto che vengano sciolti dal segreto quei militari che di questa vicenda qualcosa sanno e che finalmente quindi si sappia e ci venga detto quello che accadde. Si parla tanto di segreto su Argo 16, ma a che cosa si riferisce? Si riferisce a Gladio, ma Gladio ormai è completamente conosciuta, non è più un segreto. Si riferisce ai rapporti internazionali. Se sono legati a Gladio, anche loro non esistono più come problema. Rimane un ultimo rapporto internazionale fondamentale, il rapporto con Israele, ma è un falso problema, perché apposta come ho detto, Israele è stato coinvolto unicamente inizialmente da queste affermazioni di Viviani. Dal punto di vista mio Israele non esiste come problema in questo, e il problema di questa vicenda Argo 16 è che in ogni caso inconsciamente è sempre mantenuto vivo. Sgombrando il campo anche da questo fattore, penso che a questo punto non vi siano più problemi per sapere effettivamente come sono andate le cose. Secondo noi è un imperativo morale per lo Stato dire alle famiglie delle vittime come effettivamente sono morti i loro congiunti, che non sono morti per errori di chi pilotava l'aereo, non sono morti per motivi legati a condizioni meteorologiche avverse, come tentò di dire, anche questa fu una tesi sostenuta dall'aeronautica, ma sono morti in una missione di servizio svolta nell'interesse del governo italiano. Desidero semplicemente che mi venga finalmente dato il corpo di mio padre, che non è soltanto il cadavere che sta dentro la bara, mi venga detto se quel corpo è il corpo di una persona morta per un incidente o il corpo di una persona morta per un sabotaggio. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.